fratelli d'Italia, l'Italia si scioglie in basi militari. Signor Presidente, ora che inizia a difendere la Costituzione. La storia ti ha insegnato più le chiare culo ti comanda. Come camminasti ora con gli americani. Nuovo controllo di un italiano volpevole. Veniale non ci si può più fidare, Italia. Non credi in ideale, ormai la bandiera del tricolore è fiduciale dell'America. Italia ti odio, Italia ti odio, Italia ti odio, Italia ti odio, Italia ti odio. Fratelli d'Italia, l'Italia sta morendo, fratelli d'Italia. L'Italia sta morendo, fratelli d'Italia, l'Italia sta morendo, Italia. Fratelli d'Italia, la bandiera sta bruciando, fratelli d'Italia, la bandiera sta bruciando, fratelli d'Italia, la bandiera sta bruciando. Italia è ora, cazzi la testa, Italia è ora, cazzi la testa, Italia è ora, cazzi la testa.